Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. ...2:57 del mattino, sabato 17 novembre del 2018, il momento delle pillole, il momento del riassunto di questa serata, sempre mozzi, ci sentiamo un po' come se avessimo un braccio in meno, una gamba in meno, comunque con un arto in meno, perché... Abbiamo un calo di zuccheri, secondo me. Perché, ma al di là del calo di zuccheri, senza Sandrino comunque noi ci sentiamo incompleti. È vero. Ci sentiamo incompleti, poi addirittura non c'è neanche comunque la grande Dave. Presenza di Mr. Dave, che salutiamo perché è in viaggio verso casa, dovendo svegliarsi presto domattina, un uomo che non si ferma mai. E niente, come reduci dal Vietnam, rimaniamo qui a raccontare noi quello che possiamo, quello che cerchiamo. Mentre qui ci sono ovviamente cuori per Nadia, come è normale che succede in questi minuti e in questi momenti. Ok, va bene, perfetto. E quindi ripeto, salutiamo col pensiero Sandrino, che però ovviamente ritroveremo. Non è neanche in Grecia, tu sai dov'è lui? Certo, in Thailandia, che ritroveremo però prestissimo. Sembra un po', sai, quando ti viene a mancare qualcuno di importante, no? Che lasci sempre la postazione vuota in attesa che torni. Sì, è un po' quella sensazione lì, di abbandono. È un vuoto incolmabile. Esatto, è quel gesto di dire addio che non hai il coraggio, la forza di fare ancora. No, vai, adesso e quindi rimane la postazione vuota in attesa del suo ritorno. Esatto, che aspettiamo esatto. Lui comunque con grande ansia è sempre nei nostri pensieri, anzi come si sente, come si vede, non manca occasione di salutarlo, di ricordarlo. Sì, e lo ricordano perché... anche i clienti. No, assolutamente, tanti anche clienti lo cercano, che devono di lui. Assolutamente sì. Poi insomma, il bello del nostro lavoro è che noi non ci stanchiamo mai di dirlo. Noi qui, io almeno avrò lavorato forse un'ora nella mia vita da quando sono qui, tutto il resto è proprio la bellezza, ecco, di stare insieme, la bellezza della compagnia, di fare questo bellissimo lavoro, e per cui anche si è creata una bella sintonia con tutti noi, ed è sempre un peccato che manchi un pezzo, ecco, di questo puzzle, di questa squadra, ma insomma nulla di che, tornerà presto. Per riassumere la serata, che è stata un'altra chiaramente bellissima serata, nonostante, ma questo è fisiologico del periodo, stiano come in una sorta di bilancia calando i pesi sul piatto del celibato e nubilato, e aumentano i pesi invece sul piatto di compleanni, cene di classe e ricorrenze, di questo anche tipo. Anche qualche azienda sta iniziando a venire, sì, adesso si intensificheranno ancora di più queste. Però, come dicevamo, è un periodo fisiologico, perché è banale dirlo, ma nella banalità stanno le risposte. Maggio e settembre sono i periodi più caldi per quanto riguarda i matrimoni, e ovviamente pre-maggio e pre-settembre sono i momenti in cui anche noi lavoriamo di più e ci vediamo più vicini e confrontare, insomma, ci vediamo più spesso confrontare con queste feste, con queste ricorrenze. Però diciamo che la parola vuoto vicino a convento è una parola che non conosciamo, assolutamente sì. Però per riassumere la serata, oltre a questo momento demografico e quasi sociologico, il momento più alto sicuramente è stato quando sono arrivati i pompieri e gli artificieri a disinnescare una bionda che stava prendendo fuoco. Sì, infatti non so se tu lo noti, ma in questa nostra radio qua, che sono pochi metri quadri, si sente un leggero odore di bruciato, ma leggero devo in dire. Realtà il problema è che l'odore di bruciato non si sente solo nella radio, ma praticamente in tutto il locale, perché in piena serata. Esatto. Ho pensato bene di prendere fuoco. Esatto, era una serata talmente hot. Non vorrei che i nostri ascoltatori pensassero male, esatto, in senso figurato, ma in senso assolutamente letterale, nel momento in cui diamo le torte, insomma, come sempre ai festeggiati, usanza, come chiaramente è bello e giusto che sia, accendere le candeline, e Nadia nel passare vicino a una cameriera che stava portando la candelina per fotografare il festeggiato, è letteralmente ha preso letteralmente fuoco, e i suoi capelli si sono incendiati, c'era fumo dappertutto. Poi grazie a Dio, ripeto, gli artificieri hanno fatto in modo purtroppo non erano dei pompieri di quelli tipo la salopette con i muscoli sotto. Però sono riusciti a intervenire prima che mi assomigliasse molto dal punto di vista della capigliatura, quindi hanno evitato questo smacco estetico. Avete presente Britney Spears nel 2007 quando si è rasata la testa? Sì, ecco, esatto. Penso che domani farò una cosa del genere perché li sento tutti bruciati dietro. Diciamo che adesso il sinonimo di la definizione di, di doppie punte non è più plausibile per i capelli di Nadia. Perché non ci sono più punte. Esatto, ma al di là di, e se ci sono, sono a metà. Esatto, sono stranatissime. Però è stato un momento molto, molto alto, ma reale. Veramente c'era del fumo che usciva dalla testa di Nadia e non erano i pensieri che le arrovellavano il cervello. Anche perché direi che è il momento di parlarne. A proposito di pensieri, c'è un pensiero che girava qui al convento da qualche settimana ed era quello di rivoluzionare il momento della festa dei single e farlo diventare un qualcosa di più, un qualcosa di diverso, e direi che adesso lo possiamo ufficializzare assolutamente. Adesso praticamente facciamo la festa del mercoledì che diventa il mercoledì social. Quindi Esola si trasforma un attimino, non è più prettamente per i single, ma in realtà apre le porte a chiunque voglia passare una serata in compagnia. E attenzione, perché sentivo dire che anche la frequenza e la cadenza degli appuntamenti cambierà. Aumenterà, esatto, proprio perché va a prendere un bacino di utenza molto più ampio e si prevede una maggiore affluenza e quindi anche un'intensificazione delle scadenze. Cercheremo fino a diventare quindi proprio un mercoledì, per cui una scadenza settimanale. Quindi cercheremo anche di diventare un locale da mercoledì, nonostante, senza fare nomi e senza parlare di altre realtà, ci siano molti posti appunto che approfittano di questa serata e cercano di lanciare questa serata. Anche noi ci mettiamo in mezzo cercando di trovare come sempre il nostro spazio, il nostro angolino. E adesso siamo comunque a un mercoledì sì, un mercoledì no, riusciamo a raggiungere buoni numeri, per cui non vedo il limite in questa cosa. E poi diciamo che non è che ci interessa assolutamente fare un granché numero o cercare un numero particolare, l'importante è che la serata sia sempre nel tono convento, sia una serata di divertimento, di socializzazione, come giustamente diceva Nadia, e così è, quindi così andremo avanti, che poi vengano 50, 100, 200 persone, non ci interessa, l'importante è che l'obiettivo sia sempre raggiunto ed è, diciamo, sempre raggiunto, il successo di queste feste lo dimostra. Poi ovvio, se arrivano 500 persone noi non possiamo fare altro che darci tante pacche sulle spalle e esserne molto molto felici. Proprio così. Bene, e così si conclude anche un altro fine settimana. Cosa Non lo ricordo, anche perché allora, è stata una serata nella media. Allora approfitto io per salutare i ragazzi di Modena che sono tornati per la terza volta quest'anno. Ogni volta si sono distinti per qualche abbigliamento particolare, per una prontezza di spirito, per un umorismo fuori dalla norma. E anche questa volta si sono fatti riconoscere e approfitto per salutarli. Che è l'uomo ragno, no? No, sono i ragazzi con le magliette arancioni, però lo sposo ce l'ha blu. Sì, ho capito che ricordavano i cocktail. Esatto, bravissimo. I loro cocktail. Esatto. E di cui uno, fra l'altro, ha scritto acqua dietro. Quindi gli ho chiesto acqua. Che numero cocktail. Uno, grande. Numero uno, sì. Grande, sì. Numero uno. Ho come l'idea che sia stemmio quello lì, però non so perché. Oppure che era quello che stasera guidava. Giusto. Semplicemente. E non so se te li ricordi, erano quelli che quest'estate erano vestiti con le magliette di Twister. Non hai ricordi? Sì, assolutamente, certo. Ecco, praticamente per chi non li avesse visti, ok, sono dei ragazzi che avevano queste magliette con i vari colori di Twister e avevano portato anche la freccettina dove giri e poi ti dice chiaro. Mano destra. Bello. Sul palino rosso, così. Grande, però grande originalità. Per assurdo, praticamente c'era una palina blu ed era più o meno altezza inguinale. E tutta la freccia aveva solo non poteva uscire altro colore che perfetto, blu. Perfetto. E quindi praticamente non si capiva perché, ma non c'era molta scelta e il caso faceva che uscisse. Grande idea. Sì, assolutamente. Io invece ho avuto un incontro ravvicinato col mio passato in area YouTube, nel senso che facendo un'intervista ai ragazzi di Edolo, se non sbaglio, 1990, mi sono sentito dire: ma sei ancora qui? Siamo venuti 5 anni fa a fare la coscrizione, a fare il video, e c'eri ancora tu a fare il video. e quindi ho avuto un piccolo déjà vu col mio passato, ma personalmente credo che il miglior complimento, se così vogliamo dire, che poi complimento non è, ma secondo me è ancora di più, è il fatto che dopo 5 anni persone che immagino avranno visto centinaia di locali, centinaia di persone, conosciuto centinaia di persone diverse, centinaia di camerieri, baristi e tutto il resto, arrivino qui e associno al ricordo del convento, al ricordo del video, anche il tuo volto. Secondo me è una bellissima dimostrazione di affetto, come tanti che ci tornano a dire: ah, ti ricordi che abbiamo fatto l'intervista qui, l'intervista là. E si sta sempre più portando avanti, ecco, questa usanza di ricordare vicende di anni fa, e almeno personalmente fa molto più piacere di mille bravo e di mille bravissimo. È proprio così, sono pienamente d'accordo. A volte succede che ci si ricordano di noi, e questa cosa qua ovviamente è una grande soddisfazione. Sì, è veramente una grande soddisfazione, insomma, dà anche modo a noi di gioire del lavoro che facciamo e dell'immagine e del, insomma, del segno che lasciamo anche in pochissime ore, perché fondamentalmente ci si conosce, o per quello che ci si può conoscere all'interno di una festa, per poche ore, e poi insomma c'è il grossissimo rischio di non vedersi mai più. Quindi riuscire a creare un ricordo, anche semplice, insomma, un rapporto è un po' esagerato, però un ricordo in poche ore è una missione difficilissima, e ci fa piacere quando ce lo chiamano, quando riusciamo. Siamo straordinari anche in questo, direi, perché comunque il rapporto umano di chi lavora qua con il pubblico è di un genere diverso. Particolare. E anche perché, soprattutto, approfittando del bacino d'utenza che abbiamo, e che chiaramente per zona geografica ci porta ad avere veramente grandi numeri, ma inteso che possiamo prendere, ecco, da tante zone, è normale anche rivedere tantissime volte persone che vengono qui e che ti capiti di rivedere di anni, ma anche di settimane, che tornano spesso perché sono vicine e comode, e quindi di rivedere quasi un amico ogni settimana, quasi fosse un appuntamento fisso, un appuntamento che si ripete come una consuetudine nel corso delle settimane. Insomma, è difficile come lavoro, come missione, ma quando succede, quando riusciamo, direi che ne siamo ben contenti. Proprio così, proprio così. Beh, io direi che magari approfittiamo di questi ultimi minuti della pista ancora piena, della gente che sta ancora ballando, per unirci a loro. Cosa per dici? Unirci a loro, assolutamente sì. Che noi fare assolutamente un po' di festa, sì, insomma, le mie ginocchia stanno iniziando a cedere, ma per qualche minuto penso che potranno avere autonomia. Diciamo che alle 3:10 noi, metaforicamente parlando, entriamo in riserva, ma sappiamo che almeno per 50-60 km un viaggio ce lo possiamo fare, in attesa del benzinaio, che per noi significa è la sacrosanta pizza minestrina delle 5. Andiamo su pesante. Dipende perché già sul 18 novembre la minestrina di Ivana comincia a essere molto molto molto sentita, molto e molto ambita. Molto ambita, molto anzi, ambita. Mi sta già venendo l'acquolina alla bocca, per cui questo è il caso di... Però non è ancora arrivata la nostra ora per fermarci in autogrill, abbiamo ancora qualche chilometro da percorrere, e quindi cerchiamo, con le ultime energie che ci sono rimaste, di ributtarci in pista. Io ho già puntato di unirci alla festa. Io sarò molto personalista in questo momento, ho già puntato una festeggiata in particolare, e però questo non lo taglieremo perché noi dobbiamo essere uguali con tutti, ma a volte purtroppo la carne è debole e quindi non lo siamo. E niente, questo e momento di sincerità. Andiamo a debolirci. Andiamo a indebolirci ulteriormente. Anche perché diciamo che noi siamo così tanto masochisti che il consumare energia ci fa piacere e godere, perché implica che poi ci venga più fame nel momento della minestrina e della pizza. Mi piace questo ragionamento. Adesso vado subito a consumare energia, esatto, perché noi già tanta fame. Volutamente balliamo fino all'ultimo, perché così sappiamo che, nonostante ci stanchiamo maledettamente, avremo più fame dopo e potremo godere dopo della pizza e della minestrina delle 5. Proprio così. Sì, è un meccanismo psicologico che però ci aiuta a mantenerci sempre in forze e in grande energia. Detto questo, vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre i prossimi appuntamenti, partendo dalla Domenica Italiana, ormai tra una quindicina d'ore, diciamo così, l'aperitivo, l'happy hour della domenica al convento di Lonato, dalle 19 circa fino alle 24, con DJ Leader Carlone, DJ Alex Angioletti e il nostro Santana DJ, quindi 3 DJ in un'unica soluzione. E poi ritorneremo col venerdì Doc e il sabato Dinner and Dance, appuntamenti imperdibili e in calendario del nostro convento di Lonato. Buonanotte a tutti quanti. Ciao ragazzi, buonanotte, un saluto a Sandrino, Mr. Dave, Stefanuccio, DJ Gale, DJ Carlone, DJ Alex Angioletti e tutto lo staff del convento di Nonato. Ciao ragazzi! Ciao, buonanotte!